Presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti di Roberta Giordano. Riuscire a fare il lavoro che coincide con la tua passione è una delle fortune più grandi del mondo. Io volevo fare il calciatore da piccolo, però non avevo evidentemente le qualità, anche se nel Milan di oggi probabilmente non sfigurerei, e quindi ho essendo il mondo del calcio a me precluso, mi sono dato alla politica. E beh, conseguenziale, insomma, se uno non è adatto al calcio si dà politica, così ha detto Salvini, leader della Lega, e quindi è diventato il leader di uno dei maggiori partiti in Italia, o almeno di quelli che hanno una certa incidenza. Vediamo che incidenza nelle politiche, nelle elezioni, scusate, quella delle elezioni politiche di marzo, in queste siciliane che ci saranno domenica prossima, si vota 5 novembre, e ci sono prove tattiche di alleanze, c'è anche questa apertura da parte di Salvini al Movimento 5 Stelle, ma pare almeno al momento il Movimento 5 Stelle non ne voglia sapere. Qualcuno dice sono solo schermaglie, che in realtà a distanza si fanno ammiccamenti, ma secondo voi sono conciliabili due forze così apparentemente diverse, per qualcuno invece con molti punti in comune, Lega e Movimento 5 Stelle? Ne parleremo, così come ci occuperemo dell'emergenza incendi che in parte continua in Piemonte e in Lombardia, ma il ministro Minniti oggi ha detto che la situazione comunque è sotto controllo. E poi ci occuperemo anche di dove è finito Puigdemont, il presidente catalano che è stato destituito la settimana scorsa, fine settimana, per aver proclamato l'indipendenza da Catalogna, e sembra che abbia chiesto asilo in Belgio. Lo ha ottenuto, ancora non si capisce bene. Insomma, anche questa settimana inizia con un sacco di fatti da raccontarvi, da spiegarvi, poi da approfondire con i vari ospiti. E quindi, per i vostri commenti, lo sapete, ci sono sempre due canali privilegiati, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, per voi lì giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Ma prima di tutto, come sempre, la sintesi della giornata. Stati Uniti, nell'inchiesta per il Russiagate ai domiciliari, l'ex capo della campagna elettorale di Trump, ammissioni sulle mail anti-Clinton. E sui transgender, la Corte federale blocca il presidente americano e dice devono poter entrare nell'esercito. Catalogna, Puigdemont e i suoi ministri accusati di sedizione e ribellione volano a Bruxelles, vogliono chiedere asilo. Economia italiana, la manovra approda in Senato, 120 articoli da IVA, gli sgravi e bonus per i diciottenni alle assunzioni. Politica, il leader della Lega apre a grillo, ma il Movimento 5 Stelle per il momento risponde picche. Incendi in Piemonte e Lombardia, la situazione è sotto controllo, dice Minniti, e il ministro Galletti chiede sanzioni dure per i piromani. L'allarme dell'ONU sull'anidride carbonica, nuovi record nel 2016 e una velocità senza precedenti. Le città italiane più vivibili al primo posto della classifica di Legambiente, c'è Mantova all'ultimo Enna. Una notizia di poco fa per le critiche a Kevin Spacey e le accuse di molestie sessuali, Netflix ha deciso che sarà l'ultima stagione, la prossima, quella di House of Cards. E poi per il calcio, per la Serie A, in campo Inter-Verona. Partiamo quindi dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Paul Manafort, l'ex capo della campagna elettorale di Trump, e il suo ex socio Rick Gates, incriminati oggi nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Russiagate, sono agli arresti domiciliari. Sono stati chiesti 10 milioni di dollari di cauzione per Manafort e 5 milioni per Gates. Rischiano rispettivamente fino a 80 e 70 anni di prigione. 12 sono i capi di accusa contro di loro. Scattano le prime incriminazioni nel Russiagate. Paul Manafort, l'ex manager della campagna di Donald Trump, si è consegnato alle autorità dell'FBI, accusato di riciclaggio, truffa fiscale e violazione delle leggi sulle attività di lobby a vantaggio di potenze straniere. Manafort avrebbe riciclato almeno 18 milioni di dollari. Il procuratore speciale Robert Mueller ha ottenuto da un grand jury la messa in stato d'accusa dell'ex stretto collaboratore di Trump, dando un brusco giro di vita all'inchiesta sull'indebita influenza russa nelle elezioni del 2016. Con Manafort è stato incriminato anche il suo ex partner nella consulenza politici dell'Europa orientale e leader ucraini pro Mosca, Rick Gates, che avrebbe riciclato 3 milioni. Trump ha sempre negato alcuna collusione con il Cremlino e definito simili sospetti una caccia alle streghe dell'opposizione democratica. Secondo l'intelligence, però, Mosca ha cercato aggressivamente di condizionare le elezioni a favore di Trump, e Manafort e altri consiglieri del presidente si incontrarono con emissari russi alla Trump Tower a caccia di materiale contro la rivale Hillary Clinton. Gli avvocati della Casa Bianca hanno fatto sapere che Manafort, veterano e stratega repubblicano, che fu alla guida della campagna elettorale tra il marzo e l'agosto dell'anno scorso, non ha tuttavia alcuna informazione compromettente su Trump da rivelare agli inquirenti. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, un giudice federale a Washington ha bloccato il tentativo del presidente Donald Trump di impedire ai cittadini transgender di servire nell'esercito americano, una decisione che è suonata come una vittoria per i membri militari transessuali che hanno accusato il presidente di violare i loro diritti costituzionali. E poi dicevamo la Catalogna con Carles Puigdemont che è a Bruxelles insieme a 5 suoi consiglieri per chiedere, così sostiene la TV spagnola, l'asilo politico in Belgio. Madrid ostenta sicurezza e dice che il viaggio non la preoccupa. Questa mattina il procuratore generale dello Stato spagnolo ha chiesto l'incriminazione dell'ex presidente catalano e dei suoi ministri per ribellione e sedizione. Stessa richiesta per la presidente del Parlamento catalano e i membri dell'ufficio di presidenza. Almeno per ora non si chiede il loro arresto, più tardi ci collegheremo con la Spagna per sapere qualcosa di più. Una notizia che è arrivata poco fa dalla Gran Bretagna: ci sono 40 deputati conservatori, fra cui ben 15 membri del governo in Gran Bretagna, in un dossier di presunti molestatori sessuali compilato da ricercatrici parlamentari britanniche, di cui il giornale Times scrive oggi di essere venuto a conoscenza. Nomi per il momento non ne vengono fatti, ma si fa riferimento fra l'altro a un ministro di alto rango additato per l'abitudine di allungare le mani sulle donne in occasione di party ed eventi sociali. Nella lista intitolata Parlamentari ad alta libido risultano poi 4 deputati laburisti. E siamo all'economia italiana. Il testo definitivo della legge di bilancio arriva in Senato per iniziare domani l'iter parlamentare. In tutto sono 120 articoli, tra i quali gli sgravi per chi assume giovani, ecobonus, detrazioni per chi usa i mezzi pubblici. Le spese per chi viaggia in tram, metro e treni regionali diventano detraibili, con uno sconto del 19% fino a un massimo di 250 euro. Il bonus energia viene prorogato per il 2018, ma scende dal 65 al 50% per infissi e finestre, mentre spunta quello su giardini e terrazze. Tante le novità contenute nel testo definitivo della manovra, come il rinvio al 2019 dell'aumento dell'IVA o la proroga di 2 anni della cedolare secca al 10%. Molte anche le conferme. Tra queste, lo sgravio del 50% dei contributi per 3 anni per le imprese che assumono under 30, esteso solo per il prossimo anno a chi non ha ancora compiuto i 35 anni. Sale la soglia per incassare gli 80 euro, un modo per non escludere i dipendenti pubblici dopo il rinnovo del contratto. Inserito il pacchetto sport, con gli incentivi per la ristrutturazione degli stadi e la norma TAM-TAM, quella cioè che permette ai giovani stranieri senza permesso di soggiorno di tesserarsi dopo un anno di scuola. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la politica, settimana tutta incentrata questa, come dicevo, sulle elezioni in Sicilia. Dopo 5 Stelle, oggi sull'isola è arrivato il leader della Lega. Dopo Beppe Grillo, anche Matteo Salvini arriva in Sicilia in vista del voto regionale di domenica. Il suo tour elettorale giovedì lo porterà a Catania, dove molto probabilmente ci sarà anche Silvio Berlusconi, che il giorno prima sarà invece a Palermo. Al momento si parla di 2 comizi separati, anche se l'auspicio del leader leghista è che vengano accorpati in un'unica piazza. In queste ore, intanto, il candidato di centrodestra, Nello Musumeci, è sotto attacco da parte del Movimento 5 Stelle e del suo candidato, Giancarlo Cancelleri, per gli impresentabili inseriti in alcune liste che lo sostengono. Una polemica cavalcata anche dal governatore uscente, Rosario Crocetta, che chiede a Musumeci di fare un passo indietro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi naturalmente anche su questi temi si tornerà tra poco. Parliamo adesso però dell'emergenza incendi, sia in Piemonte che in Lombardia. Incendi che stanno devastando ettari ed ettari di boschi nelle due regioni. Oggi il ministro dell'Interno Minniti ha detto che la situazione è sotto controllo, si è congratulato con le forze dell'ordine, con le squadre antincendio, e ha detto che dietro i roghi c'è sicuramente la mano dell'uomo. Tra poco poi ne parliamo con un responsabile antincendi del Piemonte. E siamo alla cronaca con la condanna a Torino per 2 ragazzi che bullizzarono un compagno di scuola. Lo hanno minacciato, violentato e perfino costretto a consumare sotto i loro occhi un rapporto sessuale con una prostituta. Due ragazzi, oggi 22enni, sono stati condannati stamattina dal Tribunale di Torino a 8 anni e mezzo di reclusione dopo che il PM, titolare dell'inchiesta, Dionigi Tibone, ne aveva chiesti 8 per i reati di stalking, lesioni e violenza sessuale aggravata. La vittima, un compagno di classe di uno degli aguzzini, all'epoca dei fatti avvenuti tra il 2013 e il 2014, aveva appena 16 anni. Il giovane era stato preso di mira dai due bulli che lo hanno sottoposto ad ogni tipo di angheria: mangiare escrementi di cane, bere litri di vino e perfino subire abusi sessuali. Dopo un lungo silenzio, il 16enne aveva trovato il coraggio di confidarsi con il padre, denunciando tutto alle forze dell'ordine. Per i due bulli, anche l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di esercitare qualsiasi attività pubblica all'interno delle scuole. Marco Panzarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E poi c'è il tema dell'inquinamento, le concentrazioni di CO2, di anidride carbonica nell'atmosfera hanno raggiunto un nuovo record, richiamando con forza la necessità di un'azione drastica per raggiungere gli obiettivi contenuti nell'accordo sul clima di Parigi del 2015 e l'allarme dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che dice che le concentrazioni di anidride carbonica nell'atmosfera hanno raggiunto nuovi record nel 2016 a una velocità senza precedenti. E nella classifica di Legambiente, Ambiente Italia, relativa alle città più vivibili, pubblicata in esclusiva dal Sole 24 Ore, Mantova risulta al primo posto di questa classifica, mentre all'ultimo c'è Enna, la città siciliana, e tra poco cercheremo anche di capire quali sono stati i criteri. Serie TV, la sesta stagione di House of Cards, famosa in tutto il mondo, sarà l'ultima perché Netflix avrebbe deciso di mandare poi in pensione la popolare serie, una decisione presa nelle ultime ore dopo le critiche all'attore Kevin Spacey per le presunte molestie sessuali di 30 anni fa. Spacey, che ha chiesto scusa dopo l'accusa e ha fatto coming out, è uno dei protagonisti della serie, interpretando proprio il presidente americano. E ci sono a questo proposito numerosi esponenti della comunità gay hollywoodiana che ora si dicono delusi e arrabbiati per il modo in cui l'attore, facendo oggi coming out, ha associato la comunità gay con comportamenti sbagliati e illeciti. È tragico che si sia voluta un'accusa di molestie per finalmente dichiarare la sua omosessualità dopo decenni di silenzio, ha dichiarato l'attivista Peter Tatchell al Guardian. Ancora più sbagliato è stato associare la propria sessualità con comportamenti inappropriati. E per chiudere invece ci facciamo raccontare appropriatamente dal nostro Dario Ricci come sta andando la partita di Serie A Inter-Verona, o Verona-Inter meglio, Dario? No, Verona-Inter, ti rassicuro, così almeno quando finisce il programma non trovi il traffico dell'uscita da San Siro. Meno oggi, male, ecco, sì, sono qui in toppo dopo l'altro. Potrei sprecciare con la tua moto sempre nell'ambito del codice dei stradale, limiti, giustamente. Mi raccomando. Ma grazie, vedo, caro Dario, dell'informazione. Ti vedo molto prudente col casco anche in redazione. Sì, lo tengo anche qui in redazione. Comunque chiacchiero così perché amabilmente, perché siamo al 25esimo, al Bentegodi di Verona, ancora non è successo, non succede nulla, niente. 0-0, nessuna occasione, un buon Verona che tiene testa all'Inter, che è sicuramente favorita in questa sfida, ma finora 0-0, nessuna emozione. Bene, il poco emozionato Dario Ricci lo ritroveremo poi dopo, speriamo che abbia più diciamo emozioni, sensazioni piacevoli da questa partita. Intanto noi ci fermiamo brevemente perché ci sono gli aggiornamenti per chi si sta muovendo in strade, autostrade, e poi cominciamo ad approfondire i vari temi. Per i vostri commenti, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure c'è il numero per WhatsApp ed SMS, che è il 349-238-6666. A proposito dell'ipotesi di Salvini del dopo voto, di un'eventuale alleanza col Movimento 5 Stelle, Giorgio dice: sono sufficientemente massimalisti, ma proprio in quanto tali non riuscirebbero a legare così ostaggio delle politiche di pancia con cui hanno assuefatto il proprio elettorato, dice Giorgio. Continuate con i vostri commenti, ci sentiamo proprio a momenti. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Cominciamo subito allora, Roberto Giordano sempre con voi, dalle 21 puntualmente sino alle 22, con tutte le notizie della giornata, le più importanti dall'Italia e dall'estero. Adesso cominciamo a approfondire anche i temi, quindi se volete rimanere aggiornati costantemente non perdete mai la sera puntualmente dalle 21 effetto notte. Cominceremo con l'emergenza incendi e poi, per andare ai vari altri argomenti di questa sera, intanto i vostri commenti stavo leggendo sia sulla pagina Facebook di effetto notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, e sul 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS. Sempre a proposito della eventuale alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle, vista questa apertura di Salvini, Francesco scrive: forse troverebbe la segreteria telefonica, perché dice che chiamerebbe senz'altro Grillo ma non Renzi o Alfano, scrive Francesco, ma non ci giurerei, la politica, in politica tutto è possibile, anche cambiare idea magari nell'interesse del paese, mette tra virgolette ironicamente Francesco. Però adesso è tempo, per chi non avesse acceso puntualmente alle 21, di raccontare in breve i titoli principali, notizie principali, e poi cominciamo col primo tema. Stati Uniti, nell'inchiesta per il Russiagate ai domiciliari l'ex capo della campagna elettorale di Trump, e poi ci sono state le prime ammissioni sulle mail anti-Clinton, anti-Hillary Clinton. E sui transgender la Corte federale americana blocca il presidente americano e dice devono poter entrare nell'esercito. Catalogna, Puigdemont, questo nome è sempre più complicato, i suoi ministri accusati di sedizione e ribellione volano a Bruxelles, vogliono chiedere asilo. Per l'economia italiana abbiamo detto che la manovra è approdata in Senato, 120 articoli che vanno dall'IVA, gli sgravi e bonus per i diciottenni. Per la politica italiana il leader della Lega che apre a Grillo, ma il Movimento 5 Stelle per il momento sembra che non sia ben disposto. E poi gli incidenti in Piemonte e Lombardia, di cui parliamo tra pochissimo. Incendi, naturalmente, dico incendi che riguardano le due regioni da diversi giorni. Oggi ne ha parlato il ministro dell'Interno Minniti in occasione del vertice sull'emergenza svoltosi a Torino. Ha detto Minniti: ci troviamo di fronte a un evento collegato a condizioni di carattere climatico particolari. Qui il quadro è più contenuto, ma la situazione è analoga a quella del Portogallo. Vi ricordate di qualche settimana fa? Sentiamo però un passaggio delle dichiarazioni di Minniti. Si è significativamente diminuito il numero delle criticità, che ancora ci sono ma sono molto contenute, stiamo parlando di criticità che possono andare tra 3 e 4 siti, non oltre questo, e complessivamente una situazione che al momento è una situazione sotto controllo. Ora è del tutto evidente che in questi casi il termine sotto controllo va sempre adeguato con le evoluzioni della situazione, che in parte non dipendono da noi, dipendono molto dall'evoluzione delle condizioni meteo. Ecco, questo a proposito delle cause, anche dell'evoluzione di questi incendi, ha detto sì, sono sotto controllo, ma è sempre da prendere naturalmente con le pinze questa definizione, perché poi se ci sono eventi, se c'è un clima che purtroppo favorisce poi l'alimentazione, diciamo, di questi incendi, è difficile poi dire come possono andare le cose. Però ha fatto i complimenti, dicevo, a squadre antincendi, alle forze dell'ordine, lo stesso Mattarella ha mandato un messaggio in questo senso. E poi a proposito di cause, però, dice Minniti che dietro c'è anche la mano dell'uomo. Noi sappiamo perfettamente che in questi casi purtroppo l'atteggiamento doloso è un atteggiamento non solo che non possiamo escludere, ma che dobbiamo tenere fortissimamente in conto. Si tratta di reati molto gravi, perché sono veramente reati contro non soltanto il patrimonio boschivo, che qui è straordinariamente importante, siamo a due passi da un sito riconosciuto dall'UNESCO, ma è qualcosa che è contro le popolazioni. E dicevamo, in Lombardia, dopo quasi una settimana di incendi che finora hanno distrutto oltre 500 ettari di boschi, cedro e in conifere, la regione Lombardia ha deciso di chiedere lo stato di emergenza nazionale. 5 i roghi ancora attivi, dei quali preoccupano in particolare l'area verde protetta del Campo dei Fiori a Varese, e nel Bresciano c'è cioè la zona dell'Alto Garda. E in Piemonte come stanno andando le cose? Lo chiediamo direttamente a Daniele Cora, che è ispettore regionale del Corpo Volontario Antincendi dell'AIB del Piemonte. Buonasera Cora. Buonasera a voi. Quindi in Piemonte anche lì la situazione è sotto controllo, ma ovviamente non è del tutto risolta, no? Assolutamente sì, abbiamo ancora 3 fronti attivi che stiamo monitorando, la situazione comunque è in evoluzione. Domani si ricomincerà alle prime luci del giorno a lavorare, e nella serata di domani potremmo essere più precisi sull'andamento degli eventi principali. Parliamo sempre degli tre eventi principali. Che sono esattamente, Cora? Abbiamo situazioni ancora critiche a Monpantero, Locana e De Monte, provincia di Cuneo. Sono ancora tante le persone evacuate, no? dalle case, dalle strutture, Cora? Sì, abbiamo ancora delle situazioni di evacuazione nei comuni di Monpantero. La situazione più critica, quella che riguardava una casa di riposo, sono stati fatti rientrare in giornata e la situazione comunque in quel caso è migliorata. Senta, Cora, ma adesso che tipo di condizioni climatiche ci sono? Perché insomma sono i venti anche che spaventano, no? Perché non fanno altro che alimentare e stendere gli incendi. Assolutamente sì, sono ancora presenti eventi di vento soprattutto nella zona del Torinese, che comunque hanno permesso il fuoco di percorrere centinaia di metri, e siamo intorno alle 15.000 ettari di aree percorse dal fuoco, boscate. Dicevo, la Lombardia, Cora, ha deciso di chiedere lo stato di emergenza nazionale. Voi, da questo punto di vista, come siete messi? Sì, la Regione Piemonte ha chiesto lo stato di emergenza per le stesse cause, ecco, sì, la situazione è pressoché uguale. La ringrazio Daniele Cora e le auguro buon lavoro, visto che vi state dando molto da fare, insomma, da diversi giorni. Grazie intanto. Sì. Grazie a lei, grazie a voi, buona serata. Ora invece ci occupiamo della politica italiana. La politica italiana, si avvicinano repentinamente le elezioni regionali in Sicilia. Vi dicevo, domenica prossima, il 5 novembre, si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione Sicilia e per rinnovare l'assemblea regionale. I partiti ovviamente spingono sull'acceleratore della campagna elettorale. Ricordo che i principali pretendenti alla carica di presidente sono Fabrizio Micari per PD e Alternativa Popolare, Nello Musumeci per il centrodestra, Giancarlo Cancelleri per il Movimento 5 Stelle e Claudio Fava per MDP. Si dice tradizionalmente, qui chiamo subito in causa la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera. Si dice tradizionalmente che le elezioni siciliane sono un laboratorio per quelle nazionali, no? Cioè si fanno prove tecniche di alleanze, di strategie, eccetera, per poi vedere un po' come va lì ed estenderle, applicarle poi alle politiche nazionali. Però già il segretario del PD Renzi, già nei giorni scorsi, più volte ha detto che è solo un voto regionale. Alfano oggi, il ministro Alfano, nonché leader di Alternativa Popolare, ha detto che la campagna elettorale siciliana non è nazionale. Noi, non perché vogliamo sminuirla, ma perché, dice, riterremmo al contrario che considerare quelle siciliane come nazionali sia considerare l'isola come servente e strumentale ad altro. Noi pensiamo invece che non c'è nulla di più importante che la Sicilia da considerare per se stessa, proprio perché tutto deve essere in funzione delle sue esigenze, non di quelle nazionali. E Alfano attacca Salvini. Premetto che Salvini in queste ultime ore, ma già l'aveva fatto insomma in passato, ha aperto a una possibile alleanza col Movimento 5 Stelle. Vogliamo sentire Salvini che cosa ha detto? Mai e lavorerò perché gli italiani possano avere un governo serio e di centrodestra. Chiunque voterà Lega da nord a sud sappia adesso che mai i nostri voti, le nostre donne e i nostri uomini andranno a sostenere governi imposti dall'Europa, fritti misti, minestroni, Alfano, Casini, Renzi, Gentiloni, D'Alema. No, ma io gli farei una telefonata anche domani mattina, perché sono umanamente curioso di capire se ha veramente voglia di governare o se vogliono andare in giro a dire solo dei no. Però ripeto, non penso che in Italia si ripeterà l'esperienza del governo Monti e del governo Letta, perché gli italiani hanno già provato i minestroni. I minestroni funzionano a tavola, ma non in politica. Ecco, a parte i minestroni, Salvini ha detto che lui, non una volta vinte le elezioni, se c'è bisogno di una coalizione, dice io lavoro per il centrodestra al governo, però se devo chiamare qualcuno, dice sicuramente non chiamo Renzi, sicuramente non chiamo Alfano, ma una telefonata a Di Maio potrei anche fargliela. Non mi pare però, non mi pare che i 5 Stelle abbiano voglia di abbracciare Salvini, e forse possiamo sentire a questo proposito Toninelli del Movimento 5 Stelle? La Lega di Salvini è responsabile dei disastri che hanno indebolito l'Italia. In più è alleata con gli impresentabili condannati ed arrestati di Musumeci in Sicilia. In più ha praticamente dato la fiducia alla porcheria chiamata Rosatellum, quindi Salvini non può pensare di lavarsi la coscienza chiedendo o cercando alleanze col Movimento 5 Stelle. Quindi, detto così, sembrerebbe che proprio il Movimento 5 Stelle, Barbara Fiammeri, risponda a picche. Alfano, dicevo, ha attaccato Salvini dicendo: Salvini è lo stesso che voleva i tram per i milanesi, adesso vuole i voti del sud della Sicilia per difendere gli interessi del nord, eventualmente, dice, chiamo Grillo a governare se vinciamo a livello nazionale, dice Alfano, mi viene da rispondere in siciliano: nuddu si piglia se non si assomiglia, insomma nessuno si prende se non si assomiglia, si assomigliano o non si assomigliano, è un ammiccamento a distanza, ci sono intenzioni reali, Barbara, com'è questa questione tra Lega e Movimento 5 Stelle? Secondo me, allora, io penso che ci siano sempre degli interessi quando i politici si muovono, e l'interesse è quello di catturare una parte dell'elettorato 5 Stelle, vale per Salvini ma vale anche per i 5 Stelle. In ogni caso avete visto che anche sul Rosatellum, soprattutto nel passaggio alla Camera, gli attacchi nei confronti della Lega da parte di Grillo superavano quelli nei confronti di Renzi e del PD. Perché? Perché è evidente che c'è una parte dell'elettorato che si incrocia, lo abbiamo visto anche nei flussi dei voti, sui referendum autonomisti di Lombardia e Sicilia, dove una quota di elettori 5 Stelle sono andati a votare a favore dell'autonomia del Lombardo-Veneto. Quindi insomma, diciamo che Salvini punta molto su come dire, presentarsi come un credibile oppositore al sistema, un antisistema al pari dei 5 Stelle. In questo senso ammicca una possibile alleanza alla quale per ora i 5 Stelle a loro volta rispondono sdegnati no. Abbiamo sentito Toninelli cosa dice, no? Ma certo, ma è evidente che qui io ricordo sempre che i 5 Stelle avevano detto anche che non avrebbero fatto gli accordi sulla legge elettorale e prima lo fecero su Tedeschellum. Anche qui è sempre una questione di interesse. Una cosa che dice Salvini secondo me è molto vera e potremmo avere già una verifica in Sicilia. Cioè Salvini che cosa dice? Se interessa, conclude no, questa cosa, la telefonata a Grillo, se davvero sono interessati a governare, perché è evidente, e questo vale in Sicilia come a Roma, che nessuno, molto probabilmente neanche a Palermo, avrà la maggioranza dei parlamentari nella regione siciliana quanto alla Camera e al Senato a marzo, quando voteremo le politiche, per poter governare. Quindi delle alleanze spurie si dovranno formare. Se uno rifiuta, come fecero i grillini ai tempi, ricordiamoci che Bersani tentò anzitutto l'alleanza con i 5 Stelle, no? Il primo streaming con la Lombardia e Crimi alla Camera. E quindi se il Movimento 5 Stelle decide di ripetere, ad esempio, di riaffermare una posizione del genere, anche risultasse il primo partito, diventa molto difficile poi governare, dici. Barbara, governare, ti leggo qualche messaggio tra i tanti su questa possibile alleanza. Per esempio, dunque, Giorgio dice: sono sufficientemente massimalisti, ma proprio in quanto tali non riuscirebbero a legare così ostaggio delle politiche di pancia con cui hanno assuefatto il proprio elettorato. Dice poi Enzo, anzi Andrea scrive: ma ancora questa storia, il Movimento 5 Stelle non fa alleanze, sono 5 anni che lo dicono, e dai, dice Andrea. Poi Luigi: il Movimento 5 Stelle non si allierà mai con nessuno, con nessun partito della vecchia politica, e fa di molto bene. Un consiglio per lei: cominci a cercare un altro lavoro, perché non credo che la Confindustria possa continuare a pagare i soldi propri, visto che presto non avrà più il finanziamento anno. Insomma, queste sciocchezze varie. Di Luigi, Antonio scrive: nonostante le smentite di rito, è palese che tra questi due partiti populisti i punti di contatto siano moltissimi. Dice: dal sovranismo straccione alla visione più o meno xenofoba sulla questione migranti. Che dici, Barbara? È in realtà un ammiccamento forse di Salvini all'elettorato del Movimento 5 Stelle, a far capire che lui non lo disprezza come fanno le altre forze politiche, sì, che magari sono aggressive? Sicuramente Salvini punta all'elettorato dei 5 Stelle più che a Di Maio e Grillo. Resta la domanda, anche se appunto l'ascoltatore dice non se alleeranno mai, beh, allora sono condannati a non governare mai, perché in nessun paese, ricordo, si arriva al 51%, tranne nei casi dove c'è il ballottaggio, per cui comunque chi anche con una minoranza però si determina una nuova maggioranza perché c'è un secondo turno, ma altrimenti è quasi impossibile che in un turno unico si possa realizzare una maggioranza assoluta, peraltro in un paese, ricordiamolo sempre, che richiede la fiducia al governo tanto alla Camera che al Senato, dove sia chi vota sia gli eletti hanno anche età diverse, per cui sono diversi gli elettorati che votano, per cui potremmo trovarci una maggioranza in un modo al Senato e in un modo diverso alla Camera, proprio di numeri. Insomma, è evidente che la prossima legislatura si aprirà all'insegna di una grande coalizione, secondo me. Quale sia questa grande coalizione, se quella, diciamo, più scontata, direi, tra Partito Democratico, Berlusconi, Alfano, oppure quella populista di Renzi e Grillo, lo vedremo. Ma qualcosa dovrà accadere. Pat scrive: per stare a galla ci si aggrappa ad ogni sostegno, lo si chiama diplomatico tornaconto e avveduta quadratura, eccetera eccetera. Poi Cristiano dice: non succederà questa alleanza, il pedigree grillino che a Torino espelle un tizio, cioè il braccio destro della sindaca Appendino, poi dice che un tizio che vuol far stracciare una multa a un suo amico non si caricherebbe mai gente che ha comprato diamanti, mutande costosissime e lauree patacche coi soldi pubblici. Si riferisce evidentemente alla Lega Bossiana. Poi invece qualcun altro dice: basta con questa storia dell'alleanza, non sussiste, eccetera eccetera. Ma per passare ad altro, Barbara, sai che per le elezioni in Lombardia, che ci saranno nel 2018, le elezioni in Lombardia, è stato scelto questa sera il candidato alla presidenza della regione del PD e dei suoi alleati, che sarà Giorgio Gori, l'attuale sindaco di Bergamo. Quindi sono saltate le primarie perché non si è trovato l'accordo con ABDP. Era abbastanza nell'aria, no? Che sarebbe stato Gori. Sì, era nell'aria, come era nell'aria che ABDP si sarebbe tirata indietro. Anche qui questo film è già visto. E anche in questo caso diciamo agli ascoltatori che la Sicilia torna a essere, come dire, un esempio già che ci può dare qualche risposta, visto che in Sicilia per il PD si presenta con il suo candidato, appunto, come ricordavi, Micari, mentre il movimento dei Bersaniani Indalemiani si presenta con Claudio Fava. Quindi una cosa è certa: né Micari né Fava vinceranno queste elezioni. Ah, quindi tu pensi che il vincitore potrebbe essere o cancelliere del Movimento 5 Stelle o Musumeci del centrodestra? Sono loro i più quotati? Questo oggi ci dicono i sondaggi, ma mi sembra anche abbastanza evidente, laddove ci sono dei candidati, ci sono tre poli, abbiamo sempre detto, no? Uno è il centrodestra, uno è il centrosinistra e l'altro è il Movimento 5 Stelle. Sì. Se uno di questi tre poli si presenta separato, ricordiamo cosa avvenne a Roma quando Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi marciarono separatamente al ballottaggio, poi vinse la Raggi, però al ballottaggio, e lì c'era il ballottaggio per il sindaco, andò il candidato del PD, Giachetti, perché appunto gli altri due, nonostante insieme, sommando i voti, avessero una forza maggiore del candidato PD, però essendosi presentati separati non sono entrati al secondo turno. L'unione fa in la forza. Caso, ma in questo caso non c'è neanche il secondo turno, quindi è ancora peggio. Grazie Barbara Fiammeri, alla prossima, molto presto. Grazie, ciao cara Barbara. Grazie a voi, buonasera. Ciao. Intanto c'è Paolo da Belluno che, al contrario di quelli che dicono il Movimento 5 Stelle non si alleerà mai con i vecchi partiti, c'è Paolo che dice: Salvini e 5 Stelle sono perfetti assieme, qualunquismo allo stato puro. Insomma, tante le vostre opinioni differenti. Direi di fermarci brevemente per questa pausa per poi passare tra poco ai prossimi temi. State ascoltando un programma offerto da Birra Antoniana. In ogni birra una storia. Scoprila su birraantoniana.it. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo dei tanti temi da approfondire. Abbiamo parlato dell'emergenza incendi, abbiamo parlato della politica italiana, del laboratorio rappresentato dalla Sicilia, dove si vota il prossimo 5 novembre, laboratorio politico, e adesso ci spostiamo invece sulla politica di un'altra nazione, che è la Spagna, e di una sua regione ribelle, almeno in parte, diciamo. Ma prima di di tutto? Qualcuno sicuramente non ha risposto all'appello puntualmente alle 21 e quindi, mentre guardo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, vorrei ricordarvi velocemente quali sono i titoli principali. Il presidente destituito catalano Puigdemont, che vola in Belgio, vuole chiedere asilo politico e viene chiesta l'incriminazione per lui e per i ministri del suo governo. Poi, svolta sulla Russiagate, Manafort, che è il capo della campagna elettorale di Trump, si consegna all'FBI ed è agli arresti domiciliari. Trump trema per questo ulteriore passaggio della Russiagate. Poi Padoan, ministro dell'economia, che risponde all'Unione Europea sulla manovra e dice in linea con il patto. E l'allarme di Minniti sui roghi in Piemonte e in Lombardia sono dolosi. E poi, per quanto riguarda gli allarmi, anche questo dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, il 2016 è stato l'anno record per l'anidride carbonica nell'aria. Dilaga lo scandalo delle molestie sessuali, ombre su mezzo governo britannico, in un dossier ai nomi di 44 deputati, 15 sono membri del governo. L'apertura di Salvini al Movimento 5 Stelle, ne abbiamo parlato. E poi il boss che in Sicilia aveva ordinato di uccidere la figlia fidanzata con il carabiniere, lo hanno riarrestato. E questa vicenda dell'attore Kevin Spacey, che si scusa per le molestie di cui lo ha accusato un giovane attore, sono successe 26 anni fa, lui fa coming out sulla sua omosessualità e però c'è lo stop deciso da House of Cards, che dice, questa popolare serie di cui è protagonista, che sarà questa l'ultima serie a causa di queste critiche. Quindi ora subito in Catalogna ci colleghiamo dopo le vicende che vi abbiamo raccontato in queste settimane passo dopo passo. C'è stato alla fine la scorsa settimana questo scontro finale tra Madrid e Barcellona con il presidente Puigdemont che ha proclamato l'indipendenza della regione Catalogna dalla Spagna. Il primo ministro spagnolo Rajoy lo ha destituito lui il Parlamento, indetto prossime elezioni per il 21 dicembre. Puigdemont è stato incriminato per ribellione dalla procura spagnola con tutti i suoi ministri, rischia l'arresto, una condanna a 30 anni, ma a questo punto ci si chiede dov'è, girano voci che abbia chiesto asilo, che stia chiedendo asilo in Belgio, anche se, intanto saluto il nostro Mario Maragò dalla Spagna, Mario Magarò, ciao Mario. In diretta da Barcellona. Roberta. Mario, diciamo, il paradosso nel caso del Belgio sarebbe che il Belgio è il cuore dell'Unione Europea, no? Capitale Bruxelles, dove ci sono le varie istituzioni. Quindi che cosa sta avvenendo esattamente, Mario? Beh, Roberta, allora, per quanto riguarda la presenza, la fuga, se così possiamo dire, di Puigdemont, di cinque consiglieri, ex consiglieri del governo catalano che appunto accompagnano Puigdemont a Bruxelles, c'è un'ultima ora, confermata dall'Avanguardia, che è il quotidiano catalano molto vicino alle notizie del governo, che riguarda Paul Beckert. Paul Beckert è un avvocato belga specializzato nella difesa di diritti umani ed è stato contrattato come proprio difensore da Carles Puigdemont. Si tratta di una scelta mirata, quella di Beckert, che sembra anticipare le prossime mosse del destituito presidente catalano. Beckert è un esperto non solo di diritti umani, ma anche per quanto riguarda le pratiche di estradizione con la Spagna, perché pochi mesi fa ha impedito l'estradizione appunto in Spagna di un ex terrorista dell'ETA, Natividad Jauregui. Ah, uno che certamente avrà commesso qualcosa di più grave, immagino, no? Di Puigdemont, sì, ci sono buone possibilità. Sì, Beckert ha dichiarato all'Avanguardia, al quotidiano spagnolo, che è ufficialmente insomma l'avvocato di Puigdemont, il quale può legalmente inoltrare una richiesta di asilo al Belgio, però lo stesso Beckert non ha confermato quale sarà la decisione finale. Nella giornata di domani Puigdemont e con i cinque consiglieri che lo accompagnano terrà una conferenza stampa congiunta, cosa che è stata appena confermata da Oriol Junqueras, l'ex vicepresidente del governo catalano, ed evidentemente chiarirà qual è la sua posizione. Anche come se studio, Mario, sì, tecnicamente non è possibile che un cittadino di un paese europeo possa chiedere asilo in uno Stato dell'Unione Europea, quindi no, in questo caso il Belgio, però sembra che il Belgio faccia eccezione. Sì, in realtà è una questione abbastanza curiosa, proprio legalmente anche dal punto di vista del diritto internazionale, e sarà decisiva da questo punto di vista la conferenza stampa di domani da parte di Paul Becker. Per quanto riguarda il link belga, la connection belga, se possiamo dire, il link di Puigdemont non è con il governo belga, ma è nello specifico con Theo Franken, che è il segretario all'asilo e alla migrazione del governo belga, che è appunto un politico belga ed è il membro dell'alleanza, della nuova alleanza fiamminga, che è un partito nazionalista fiammingo, conservatore e separatista e regionalista. E proprio ieri, 24 ore fa, lo stesso Theo Franken aveva parlato chiaramente della possibilità di concedere l'asilo politico a Carles Puigdemont qualora l'ex presidente catalano ne avesse fatto richiesta. Dichiarazioni che ieri scatenarono un piccolo terremoto politico in Belgio, perché il premier belga, Carles Michel, si affrettò a correggere il tiro, a dichiarare frettolosamente che la concessione di asilo politico a Puigdemont non era un tema attualmente al vaglio del suo esecutivo. Quindi il nesso di Puigdemont, ripeto, è con questo partito, con la nuova alleanza fiamminga. Questo è una cosa, insomma, abbastanza certa e abbastanza chiara. Però la conferenza stampa di domani sarà estremamente importante, perché definirà dettagli, ci farà capire quali sono i dettagli di questa fuga di Puigdemont e quali sono i prossimi passi dell'ex presidente catalano. Quindi, diciamo, sarebbe sotto l'ala protettrice di un ministro del governo belga, che però è leader di un partito separatista. Quindi è abbastanza curiosa, come dicevi tu, questa cosa abbastanza intricata, no? E domani, appunto, come dicevi, si chiarirà quali sono effettivamente le intenzioni e se davvero può chiedere asilo politico Puigdemont con tutti i suoi ministri. Mario Magarò, allora ci aggiorniamo anche su questo prossimamente. Grazie Mario. Perfetto. Dalla Spagna. Ciao Mario, buon lavoro. Viabilità. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi di nuovo, naturalmente siamo insieme tutta l'ora dalle 21 alle 22, molte le cose raccontate, approfondite finora, abbiamo appena lasciato la Catalogna e adesso invece torniamo su questioni nostre tra pochissimo, perché parliamo della vivibilità delle città italiane con anche una classifica che ci dice molte cose. Vi ricordo però velocemente quali sono i fatti principali della giornata. Stati Uniti, nell'inchiesta per il Russiagate ai domiciliari l'ex capo della campagna elettorale di Trump, ci sono state le prime ammissioni sulle mail anti-Clinton e poi sui transgender la Corte federale blocca il presidente americano e dice devono poter entrare nell'esercito. Di Catalogna abbiamo appena parlato con l'ex presidente destituito Puigdemont e i suoi ministri accusati di sedizione e ribellione che vogliono l'asilo politico in Belgio. Per l'economia italiana la manovra approda in Senato con 120 articoli, per la politica il leader della Lega apre a grillo, ma il Movimento 5 Stelle per il momento sembra che sia poco disposto. E poi ci siamo occupati degli incendi in Piemonte e Lombardia. La situazione è sotto controllo, dice Minniti, e il ministro Galletti chiede sanzioni dure per i piromani. Radio 24 Day. Ci occupiamo in questa Radio 24 Day dello studio di Legambiente e Ambiente Italia sulla salute dei capoluoghi di provincia italiani, pubblicato in esclusiva dal Sole 24 Ore. Nella classifica al primo posto c'è Mantova e all'ultimo posto c'è una città siciliana che è Enna. Ne parliamo con il nostro Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore. Ciao Jacopo. Buonasera a tutti. Allora, quali sono i criteri con cui tra l'altro Mantova ormai da anni mi sembra che sia sempre piazzata benissimo, no? Ma è una città che ha un notevole risultato ambientale. La cosa interessante è che dei 16 criteri ne ha passati quasi tutti. Sono criteri come l'ambiente, la qualità dell'aria, il riciclo dei rifiuti, la mobilità, la disponibilità di sistemi di trasporto collettivo e così via. Sono Sono criteri molto interessanti che vedono Mantova prima, poi seguono città come Trento, Bolzano, che sono sempre Parma. Molto in alto in classifica, no? Il Trentino Alto Adige con le sue città. Sì, tutto il Nord Italia spicca, ma non c'è solamente il Nord Italia, segnalo per esempio Cosenza. Cosenza guidata in Calabria. Da Mario Chiuto è al 13° posto, che vuol dire in fascia molto alta per le politiche che da molti anni il sindaco Chiuto sta adottando a favore delle politiche ambientali. E è molto interessante anche vedere come si collocano le grandi città, per esempio Milano è 31esima, in crescita tutto sommato, perché il riciclo dei rifiuti funziona bene, la qualità dell'aria, nonostante le nostre impressioni di cittadini, impressioni abbastanza perplesse, la qualità dell'aria a Milano sta migliorando in modo molto importante da molti anni. Anche se in questi giorni eravamo tutti molto preoccupati, no? Perché a parte per le questioni morfologiche della pianura padana in cui si trova Milano e non solo, le varie regioni intorno che infatti hanno fatto un accordo a giugno scorso per avere delle politiche coordinate, si diceva insomma che l'aria fosse molto molto molto pesante, che il livello di polveri sottili avesse superato i limiti da un po'. Però dici, rispetto al passato comunque ci sono dei miglioramenti? Non c'è paragone rispetto all'aria che molti dei nostri ascoltatori sono giovani, però chi ha qualche anno in più probabilmente ha respirato un'aria assai più pesante, in modo non paragonabile a quella che respiriamo di oggi. Era un'aria piena di soprattutto ossidi di zolfo, quelli che rendevano, e in parte rendono ancora oggi nelle giornate più sfortunate, rendevano rosa il cielo sopra Milano, e chi si avvicinava a Milano in automobile, in treno, vedeva in lontananza questa striscia orizzontale di colore rosa nel cielo, ed erano gli ossidi di zolfo sviluppati dal gasolio degli impianti di riscaldamento. Ce ne sono ancora molti. Non sarà mica dovuto a questo che quegli splendidi tramonti di ieri meravigliosi che sono visti, insomma, delle fiamme rosse in cielo? Ma anche questa sera questi colori straordinari del tramonto padano, io ho un sospetto che si tratti dei ceneri, hanno un colore molto simile. Dai, non ci rovinare la festa così. Addirittura purtroppo è stato paragonato a un quadro di Van Gogh, e invece dietro ci sono ombre a queste luci. Io sospetto i tramonti tipici rosso intenso sono tipici della presenza di ceneri nel cielo, e non voglio immaginare cosa possono essere delle ceneri a ponente della Lombardia, però mi ha colpito molto questa colorazione molto intensa. Diciamo suggestiva, speriamo che non ci sia dietro qualcosa di troppo negativo. Senti, poi dicevamo, quindi Enna all'ultimo posto, mi pare che da tempo non brilli. Ma la Sicilia, nonostante le altissime valenze ambientali, ha un problema che abbassa tutte le città in graduatoria, che è soprattutto il tema dei rifiuti. La Sicilia è molto indietro nella gestione dei rifiuti, nel riciclaggio, nel recupero delle materie che si possono ottenere dai rifiuti, cosa che per esempio in tutto il centro e soprattutto il nord, il Veneto in questo è prima in Italia per quanto riguarda il recupero e il riciclo dell'immondizia. La Sicilia invece è un grande buco nero. Un altro problema che hanno... Potrebbe comuni... essere un buon tema questo, visto che ci sono le elezioni regionali, no? Il 5... Assolutamente, 5 ma infatti viene affrontato dai vari candidati. Un altro tema che tiene bassa la Sicilia è il problema dei trasporti pubblici, cioè la carenza di infrastrutture di trasporto. Interessantissima l'esperienza presentata oggi da Palermo con l'introduzione del tram. È tornato dopo decenni il tram. Però Palermo col tram. Grazie a Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore. Grazie Jacopo. Ciao. Prego, Jacopo. E saluto a tutti. Adesso vediamo, sentiamo se il nostro Dario Ricci è più emozionato che all'inizio della partita, che era un po' annoiato da questa partita Verona-Inter. Ma Dario? Io mi sono emozionato molto a sentire te, Jacopo, parlare di questi tramonti. È stata una scena molto, molto bella, ma commosso, direi. Non emozionato invece dal prevedibile successo che sta maturando al Bentegodi di Verona dell'Inter sui gialloblu. Siamo al terzo della ripresa e Inter in vantaggio per 1-0. Decide finora la rete al 35esimo, e ora ancora una volta Inter vicina al raddoppio con Icardi. Al 35esimo però il vantaggio siglato da Borja Valero, c'è stato un cross dalla destra di D'Ambrosio, errore pasticcio della difesa gialloblu che ha permesso a Borja Valero di spuntare tutto solo sul secondo palo e di deviare in porta. La rete che regala fino a questo punto i 3 punti ai nerazzurri che così tornerebbero al secondo posto da soli nella scia del Napoli capolista. Roberto, grazie caro Dario Ricci, ti saluto e a questo punto ci lasciamo brevemente perché poi vi riaggiorno, come sapete, sempre alle 22:00.